I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. A leggere la notizia in maniera secca c'è da restare di sasso. La Corte dei Conti, infatti, ieri ha sancito che per la prima volta l'INPS, dalla nascita dell'INPS stesso, va in negativo nel suo bilancio per 1,7 miliardi. E appunto, vista così, la notizia preoccupa e preoccupa soprattutto tutti i pensionati italiani o i pensionandi italiani. Il timore immediato è l'incapacità dell'INPS di continuare a erogare pensioni. In realtà ha chiarito l'enigma, si fa per dire, il presidente dell'INPS stesso, Tito Boeri. Non c'è nessun allarme sui conti dell'INPS e il disavanzo, il rosso da 1,7 miliardi, deriva unicamente dai ritardi nei trasferimenti dello Stato che vengono anticipati dall'INPS e poi ripianati di nuovo dallo Stato. Si tratta quindi di una questione contabile, ha ricordato Boeri, e le prestazioni pensionistiche in Italia sono garantite dallo Stato italiano. Di conseguenza, aggiungiamo noi, quello che conta non è tanto il bilancio dell'INPS, ma quello dello Stato stesso. Va anche precisato che i consuntivi contenuti nel rapporto della Corte dei Conti sono già incorporati nelle stime del deficit e del debito pubblico, ossia lo Stato è, tra virgolette, consapevole che deve ripianare il 1,7 miliardi di euro di rosso anticipato dall'INPS. Paura fugata quindi? Certo, forse si poteva essere un po' più chiari nella prima comunicazione della Corte dei Conti. Leggere del primo rosso nella storia dell'INPS e un rosso miliardario senza spiegare che si tratta di una partita di giro significa scherzare col fuoco delle pensioni degli italiani. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Con o senza liberalizzazioni, la professione che veramente sembra essere messa a rischio dalla nuova economia e soprattutto dalla nuova concezione dei trasporti è proprio quella dei taxi. Qui non stiamo parlando di Uber, ma di qualcosa di ancora di più inverosimile, ovvero il drone taxi. Finora abbiamo pensato all'auto che si guida da solo, ma gli arabi sono andati avanti e questa mattina è stato annunciato proprio a Dubai, al World Government Summit, che Dubai è pronta a lanciare da luglio, quindi stiamo parlando del 2020, il primo servizio al mondo di droni taxi per passeggeri che intendono muoversi rapidamente e senza pilota da una parte all'altra della città. Il velivolo, che si chiama Ehang 134 ed è prodotto in Cina, ha 50 km di raggio, va a circa 100 miglia all'ora, 180 km all'ora, e può portare un passeggero di 100 kg con bagaglio. Il passeggero può controllare da un monitor e fissare la propria rotta e poi il velivolo viene vigilato a terra da un centro di controllo. È una grande novità, certamente, ma lascia pensare a quanto stia cambiando rapidamente il mondo e quanto realmente sia difficile prevedere quale sarà il nostro concetto di mobilità di qui ai prossimi anni. In questo senso, proprio il mondo del Golfo sembra quello più avanti, tanto che lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, commentando proprio questa iniziativa che non ha precedenti, ha detto che lui, il suo obiettivo, è quello di avere entro il 2030 il 25% di tutto il trasporto pubblico o privato di Dubai gestito da veicoli senza autista. E ora anche da velivoli. Bisognerà vedere se prende il volo un'iniziativa su cui veramente è ancora presto per dire quale sarà non soltanto la risposta di mercato, ma soprattutto se arriverà fin qui la reazione dei tassisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.